libro che ho coeditato con l'associazione Oltre si intitola Il Grigio e i Don Chisciotti Urbani, poi cambiato in Urban senza genere. In pratica è un libro che mescola diversi generi letterari, in effetti. E, innanzitutto è stato ritrovato dopo 11 anni, che era in un archivio dell'associazione Oltre, ed è un'opera collettiva scritta a più mani e a più voci dai membri appunto dell'associazione, e narra in pratica la vita, la storia e l'organizzazione di un evento che si faceva qui a Bologna qualche anno fa. Non l'ho nemmeno vissuto di persona, che è la Partot, la parata della città di Bologna, che diciamo ospitava diverse realtà associative di Bologna. E questo è un resoconto, perché l'associazione Oltre e i suoi membri erano diciamo i principali promotori dell'evento. E in cosa consisteva questo evento? Diciamo era un momento di condivisione cittadino di vari laboratori che si perpetuavano durante l'anno. Bello. E quindi in questo libro narra prima la storia di alcuni personaggi che, di cui io personalmente sono stato l'editore in qualche modo insieme a loro, e ho curato la veste grafica, mentre il testo appunto è tutto scritto da loro, dei membri dell'associazione. In questa parte si dice che i personaggi della storia volutamente hanno dei riferimenti a persone casuali, quindi sono appunto degli archetipi in qualche modo delle persone che hanno portato avanti questo progetto. Mentre successivamente, nella seconda parte del libro, che è più diciamo un resoconto con testimonianze vere delle persone che l'hanno attraversata, quindi è interessante anche per questo. Bello, insomma, un bel lavoro di ricostruzione. Sì, sì, è stato un bel lavorone. Poi dopo questi 11 anni che è stato in un cassetto, è stato un attimo diciamo editato da Sophie Schulderbacher e da Lidia dell'associazione Oltre, Lidia Buchner, e insieme loro mi hanno proposto anche questo progetto, quindi sono stato molto contento. Tu quindi fai parte di questo laboratorio e il tuo ruolo è quello di rilegatore o fai anche altro? Inizialmente io sì, gestisco un laboratorio editoriale che in qualche modo è una stamperia, legatoria, che vuole essere anche un luogo di condivisione di libri, di espressioni stampate, però innanzitutto diciamo l'attività principale è la stampa, la legatoria di vario tipo. Possono partecipare tutti? Il laboratorio editoriale è comunque un'attività commerciale di Bologna, quindi si tiene su grazie a comunque commissioni, okay, lavori che faccio con i cittadini di Bologna e non. E poi ho iniziato appunto a creare dei progetti proprio come laboratorio, tra cui questo libro, Il Grigio. Per caso ci sarà una presentazione di questo libro? Sì, infatti a dicembre, 7 dicembre, ci sarà una presentazione al Modo Infoshop a Bologna, dove parleremo un po' più approfonditamente di questo libro. Li ospiteremo, siamo ospiti noi stessi, quindi condivideremo un po'.